Capitolo 28. Münster, 8 febbraio 1534. Più d'una fuor dall'ordine rimase, e nella sua follia dal chiostro evase. Molte, in preda a carnal concupiscenza, si diedero a sfrenata delinquenza. Redeker si concentra, rigirando la moneta tra le mani. Guarda un attimo il muro, poi socchiude gli occhi, lancia e vince la sua quinta birra con aggiunta d'acquavite. È l'ultima, ci assicura subito, mentre torniamo verso il nostro tavolo. C'è calca, attorno alle due arene sorte tra i tavoli della taverna di Mercurio. Sono le disfide del carnevale di questa sera. Da una parte si balla al suono del liuto e vince un barile di birra l'ultimo che abbandona le danze. Dall'altra ci si gioca una pinta di birra acquavite a chi lancia una moneta il più possibile vicino al muro, senza toccare però il muro stesso. Redeker è il campione indiscusso. Knipper Dolling ha un credito con l'oste e gli dà fondo. Quattro boccali vuoti sono già allineati di fronte al suo naso spugnoso. Si alza un po' oddeggiante, in piedi sulla sedia. Cerca di richiamare l'attenzione della sala e attacca a improvvisare sulla musica del liuto una canzone sui fatti che tutti stanno commentando. Fu uno spirito impuro, un sozzo mostro. Quel che la spinse fuor dal dolce chiostro, fuggite insane dalle sacre mura, ebbero asilo in mezzo a gente impura. Due tavoli più in là qualcuno si allaccia immediatamente alle rime del capo delle gilde e prosegue la descrizione delle fuggitive di Huberwasser. Non fa in tempo a finire che un altro ha già accolto l'invito e celebra le gesta di Rotman sotto le mura del convento. Funziona così. Chi ha cominciato la canzone, in questo caso il nostro Knipper Dolling, paga da bere a chi la conclude. È una gara a chi lascia tutta la taverna senza strofe da aggiungere. Il massimo è stato quando ha rammentato alle monache la loro funzione di procreatrici. Non so come faceste a star serio, ricorda Knipper Dolling scuotendo la testa, incredulo. Beh, aveva ragione, no? Ribatte un altro. C'è da ridere? Lo dice anche la Bibbia che bisogna moltiplicarsi. Sì, giusto. A me piuttosto ha fatto ghignare la badessa affacciata alla finestra, che cercava di richiamare le consorelle all'amore per il loro unico sposo. Quella vecchia bagascia della von Marsfeld. Troia è pure spia del vescovo. Tanti saluti alle belle novizie. Arriva un giro di birra offerto da Redeker con i proventi del bottino racimolato al Wolbeck. Il piccolo bandito balla su un tavolo al ritmo degli Osanna in suo onore. È ubriaco. Si cala le braghe dondolando i fianchi e ripete a gran voce l'invito fatto alle monache dai sostenitori di Rotman qualche ora fa. Forza, sorelle, consolate questi poveracci! Un vecchio, con due grandi baffi, abbraccia me e Knipper Dolling da dietro. Il prossimo giro lo offro io, ragazzi, esclama contento. È da quando ho capito di avere il pisello che per carnevale vado con gli amici sotto le finestre dei conventi a far proposta alle monache, ma per Dio non m'era mai capitato di vederle scappare fuori così. Merito vostro, lo ammetto, siete stati grandi. Alziamo i boccali per brindare al complimento. L'unico che lascia sul tavolo il suo è Jan di Leida. Stranamente non ha ancora detto una parola. Se ne sta fermo al suo posto, con aria disinteressata. Se lo conosco bene, è seccato perché sotto la torre di Huberwasser a far casino non ci è venuto. Ha cercato di ottenere un risultato simile con le puttane di un bordello, invitandole a offrire una scopata gratis a tutti quelli che si fossero fatti ribattezzare da Rotman, però ha raccolto soltanto insulti. Alza gli occhi e vede che lo sto fissando. Attacca a grattarsi una spalla con fare infastidito, come per darsi contegno, ma non è così. Sfrutta un momento di silenzio e si inserisce. Ehi, gente, questo è facile, guardate! Chi sono, eh? Chi sono? Si gratta sempre più forte usando un cucchiaio sporco di zuppa. Knipper Dolling si irrigidisce sulla sedia. Qualcuno guarda da un'altra parte per evitare la domanda diretta. Sento il dovere di salvarli. Sei Giobbe che si gratta la rogna, Jan, è chiaro. Poi, rivolto agli altri, come avete fatto a non capirlo? L'ha fatto benissimo, no? Un coro. Vero, vero, bravo, Jan! L'attore si schernisce. Sì, vabbè, era facile questa. Invece state attenti adesso. Dalla sedia scivola sotto il tavolo con un movimento felino, soffiando tra i denti con forza. Chi sono? Chi sono? Knipper Dolling si alza senza far rumore, mormorando che ha bisogno di pisciare. Dal basso la voce insiste. Non andate via, ignoranti! Vi darò una mano! Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio! Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato al Signore. Chi recita a memoria il libro di Giona in osteria? La voce incredula e un po' divertita è quella di Rothman, che si è appena accostato al nostro tavolo. Il profeta non fa in tempo a riemergere dal ventre della balena che esplode il boato d'ammirazione per il conquistatore di Huberwasser. Una settimana fa ha fatto consegnare alle donne di Münster tutti i gioielli per devolverli al fondo per i poveri. Oggi ha convinto uno stuolo di monache ad abbracciare la fede rinnovata. Un tempo per piacere alle donne ci voleva il denaro, è il commento di un tessitore. Adesso occorre interessarsi alle scritture. Che gli fai alle nostre signore, Bernard? Le vostre signore non apro bocca, ma alle novizie di Huberwasser è bastato dire che se non fossero uscite, Dio gli avrebbe fatto crollare in testa la torre campanaria. Una bordata di risate. E comunque, gente, là dentro di vocazione ce n'è poca. Sono quei grassi bottegai dei loro padri che convincono le novizie a rinunciare al mondo pur di non dover cucire la dote. Un bicchiere di liquore offerto dall'oste in persona al più affascinante di tutti i münsteriti plana sul tavolo. Rothman sorseggia lentamente. Uno sguardo a Bokelson. Che aria abbattuta che ha il nostro Jan. Che ti è successo stasera? Dove eri finito? Il santo pappone scatta in piedi. Cercavo l'ispirazione, mi spiego? Per il grande spettacolo di questa sera. Io rigetto con assoluta fermezza l'idea del peccato originale, per questo ora mi spoglierò delle vesti e, nudo come padre Adamo, andrò per le strade per invitare gli abitanti della città a riscoprire l'uomo incorrotto che sta dentro di noi. Comincia a togliersi la casacca, sempre più eccitato. Si avventa sul paccione di Knipperdolling. Coraggio, amico Bernd! Io e te saremo gli attori principali di questa grande commedia dell'Eden. Cazzo, Jan, ma sta nevicando! Knipperdolling lancia occhiate impaurite all'intorno, poi si lascia convincere. Jan gli sta sfilando la cintura. Ravvedetevi, cittadini di Münster, spogliatevi dal peccato! Il grido fa sobbalzare gli avventori. Qualcuno comincia a ripeterlo per scherzo e, quasi per sfida, visto il freddo che fa là fuori, una dozzina di persone comincia a spogliarsi. Nel tentativo di capire cosa stia succedendo, Redeker si distrae e spiattella contro il muro la sua moneta, perdendola prima di almeno 15 partite. Jan grida a squarciagola. Jan è completamente nudo. Jan esce dal locale. Knipperdolling lo segue in ogni gesto. Dietro di loro almeno una dozzina di Adami. Una folla si raduna sulla porta della taverna di Mercurio. Bisogna spingere per assistere alla scena. Knipperdolling, nonostante il grasso che lo riveste, non regge al freddo e corre come un fiume in piena per riscaldarsi. Jan lo raggiunge. Si piazza in testa allo strano corteo. La gente scende in strada e si fa il segno della croce. Non si sa se è per devozione o per allontanare una sciagura. Ci sparpagliamo tra i vari capannelli di persone, buttandoci a terra in preda a finta agitazione, ma ci scappa da ridere. Rothman declama la visione del libro di Ezechiele. Redeker schiuma dalla bocca. Io assalgo con la spada demoni immaginari. Molti ci imitano divertiti, pensando a una carnevalata. Altri la prendono fin troppo seriamente. Qualcuno comincia a piangere, si inginocchia per chiedere il battesimo. C'è chi vorrebbe punizioni corporali e chi getta sulla strada i suoi averi. Un vecchio, che è stato tra i primi a denudarsi, cade a terra incapace di muoversi. Knipperdolling lo copre con la sua pelliccia e lo porta via. Il sarto Schneider, la cui figlia già una volta è stata rapita dagli angeli, con lo sguardo al cielo grida: «Guardate! Dio troneggia tra le nubi! Guardate il vessillo di vittoria che schiaccerà gli empi!» Si mette a correre lungo le mura, batte le mani, con le braccia fa il gesto di volare. Salta, ma non avendo le ali, cade nel fango a mo' di crocefisso.